stai piedi, son tutto innamorato. Una bimba dagli occhi di Patanasino in su, e tu lo vedi, son come trasognato. Io non mangio, non bevo, non fumo, non dormo più. Se così continuerò, pazzo un giorno diverrò, certamente oggi e domani cascherò dal quinto piano, dalla testa ai piedi, son tutto innamorato. A teatro più non vo, più la barba non mi fo, fino a che baciarla non potrò. Così continuerò, fatto un giorno diverrò, certamente oggi o domani cascherò dal quinto piano, dalla testa ai piedi, son tutto innamorato. A teatro più non vo, più la barba non mi fo, fino a che baciarla non potrò.